Rientriamo in voce, sono le 11 in punto e dunque invertiamo un po' l'ordine degli interventi che avevamo previsto, perché Marco Santarelli interverrà ma tra un quarto d'ora circa, quindi lo aspettiamo con pazienza e nel frattempo comunque parliamo di questa iniziativa di questa sera e lo facciamo così tra noi, diciamo, ma è importante anche andare a specificare meglio quali saranno alcuni contenuti della serata. Ciao Cristina, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Niente, io volevo semplicemente ricordare che come ogni mercoledì, ogni fine mercoledì, l'ultimo mercoledì del mese, Radio Onda Rossa e Forte Prenestino dedicano appunto questa serata e questa iniziativa alla presentazione di Scarceranda, che ormai insomma essendo un'agenda la sua presentazione è abbastanza siamo ad aprile, quindi ormai è superata, però abbiamo, non so, continuiamo a dedicare questa giornata al carcere. Una cosa su Scarceranda la volevo dire, insomma, che l'agenda appunto contro il carcere di Onda Rossa, che continua comunque ad essere tanto spedita nelle carceri italiane, e insomma con una media continuiamo ad aprile di quasi dai 5 alle 10 spedizioni a settimana, e quindi insomma l'attenzione che c'è verso questa agenda, verso la radio, verso i testi, che anche insieme all'agenda c'è questo libricino, evidentemente sono molto alti da una parte, e dall'altra evidentemente anche insomma il popolo carcerario comincia aumenta sempre di più, soprattutto quello femminile, mi sembra, viste anche appunto le richieste che vengono alla radio per quanto riguarda le spedizioni della Scarceranda. E quindi è un po' anche il carcere femminile che volevamo dedicare questa giornata di oggi, più che altro essendo insomma domani 25 aprile, un altro giorno di resistenza, e sicuramente insomma le donne per quanto riguarda la repressione, per quanto riguarda la resistenza, ci sembrano insomma nell'ultimo periodo sono molto attive, e abbiamo deciso di dedicare l'apertura di questa serata a Pinar Selek. Nel radio ne abbiamo parlato diverse volte, si tratta di un'attivista femminista e antimilitarista turca, perseguitata dal governo turco ormai da diversi anni, dal 1998, per le sue ricerche e attività politiche legate a quello che il governo turco continua a fare nei confronti della popolazione curda, ma anche nel passato quella armena. Pronto? Subito. Sì, mi senti? No, era andata un po' via l'audio, quindi sto ferma. Sì. Ha subito diversi processi per queste sue ricerche, diciamo così, e questo suo studio, o comunque interviste verso la popolazione curda e armena, e ha subito diversi processi appunto tra cui nel corso degli anni, perché è stata accusata, abbiamo parlato diverse volte, di aver partecipato a un attentato nel mercato delle spezie a Istanbul, dove poi due giorni dopo l'attentato già la polizia aveva stabilito che non era stata un'esplosione, una bomba, bensì una bomba del gas, quindi non c'era stato in realtà nessun tipo di attentato. Tuttavia Pinar viene perseguitata e gli vengono fatti diversi processi sui quali, insomma, sui quali lei viene sempre assolta, due cassazioni, se non che ultimamente quest'anno, l'abbiamo seguito anche tramite la radio, all'inizio dell'anno l'ultima cassazione in maniera del tutto illegale, perché è una cassazione anche da noi, non è che poi il processo si può riaprire perché il giudice decide che lo vuole riaprire, essendo una cassazione il processo finisce, in realtà nei suoi confronti hanno deciso di riaprire i procedimenti giudiziari, e quindi insomma è stata di nuovo condannata a questo. E quindi insomma Pinar è una donna che nel corso della sua vita ha continuato comunque a produrre materiale contro il militarismo, soprattutto quello turco, a porre delle riflessioni al movimento femminista anche sull'antimilitarismo, e quindi insomma ci sembrava buono in questo momento poter insomma aprire questa serata con lei. Presenteremo un piccolo video in cui lei racconta un po' la sua storia e anche delle immagini del processo, a cui è un processo che c'è stato quest'anno, a cui hanno partecipato tante delegazioni dei comitati in solidarietà con Pinar Selek di tutta Europa, tra cui anche quello italiano, per cui presenteremo questi 10 minuti di video su lei e sul processo che c'è stato. E poi appunto andremo a presentare questo documentario, Mille Notte, fa un po' sentire te Santarelli, il regista, e prima del video abbiamo invitato l'avvocato Tatiana Montella, per farci un po' anche un quadro di quelli che sono ultimamente, insomma, i processi e i carichi che sempre di più a livello di movimento vengono portati avanti. Tante misure cautelari, tanti appunto procedimenti aperti, per cui ci faremo fare da lei un po' un riassunto di quelli che sono stati che è stata la repressione giudiziaria nei confronti dei movimenti del movimento nell'ultimo periodo. E poi appunto il Mille e una notte, questo documentario di Santarelli di cui parlerà lui stesso. Quindi noi vi aspettiamo, vi ricordo che c'è la cena, come al solito, la cena di Scarceranda con le ricette evasive, e a partire dalle 20:30 al centro sociale Forte Prenestino, qui a Federico Delpino. Perfetto, va benissimo, insomma, va avanti l'organizzazione di queste scene, alla fine insomma ne sta venendo fuori anche una bella collezione tra film e documentari che si occupano di carcere. Anche questo insomma è un aspetto così importante, perché si dà spazio anche, no, ai diversi modi attraverso cui questa realtà può essere raccontata, e certamente quello del cinema forse è uno di quelli più d'impatto da questo punto di vista. Quindi sì, diciamo che non, ultimamente insomma, penso, forse nel passato c'era molto più materiale, secondo me anche un po' valido, per quanto riguarda i documentari e il carcere. Ultimamente ne sto uscendo sempre di meno. Abbiamo proiettato insomma quello dei Fratelli Italiani, poi questo, abbiamo proiettato anche un altro sul carcere del 1973, insomma sì, ci piace, insomma, diciamo che è sicuramente buono ripercorrere un po' quella che è stata anche la storia carceraria e quelle che sono le condizioni e tuttora insomma molto pesanti in cui si vive dentro il carcere, ma anche per porre una questione insomma allucinante che ancora nel 2013 si viene arrestati veramente non nulla, insomma, in un paese veramente dei ladri e ladroni, ancora la repressione a livello popolare avviene tantissimo con l'entrata in carcere e soprattutto insomma delle classi in ambienti, quindi continua a essere sempre un sistema insomma molto di classe, di controllo sociale, molto di una determinata categoria sociale che viene incarcerata, che viene incriminata, che viene sia faccia le lotte, anche che viva delle condizioni di vita più basse, ecco. Eh sì, assolutamente, anche perché poi di solito con il gruzzoletto a disposizione si hanno molte più possibilità di difesa, di uscire, eccetera, eccetera. E invece da questo punto di vista chi non ha queste disponibilità evidentemente insomma ci può marcire anche in galera. Quindi è chiaro che la selezione di classe da questo punto di vista è abbastanza insomma così pienamente dispiegata anche attraverso questo strumento coercitivo così, così imponente e pesante. Allora, vabbè, credo che abbiamo detto tutto. Il regista sarà presente questa sera. Il regista sarà presente, presenterà appunto il documentario e poi sarà presente anche le domande che ci daranno alla fine del documentario. Esatto, si spera in un bel dibattito alla fine. D'accordo. Allora, Cristina, ti ringraziamo. Stasera. E a stasera. Ciao. Ciao.